Esercizio 2. Ascolta e ripeti le frasi dell'esercizio 1. Ho visto una splendida sfilata. Oggi splende il sole. Il sorgere del sole è uno spettacolo straordinario. Ho fatto la spesa al supermercato. Sarò in vacanza durante il mese di settembre. Nella sua borsa ci sono moltissime cose. Amo il mio paese. Il battesimo si svolgerà nella chiesa principale. La presenza di un famoso filosofo è essenziale. È un episodio da portare come esempio. Ho fatto una bella visita al museo. Se è possibile, pago la tassa di iscrizione. È l'ennesima volta che racconta questo caso. È una poesia piena di fantasia. Giuseppe fa raramente uso della macchina. Parla un inglese curioso. Parla un inglese curioso.